Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. I could sleep with Seconda parte di Eclettica, Eclettica che va in onda tutti i giorni, fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM con Giulio Caperdoni in voce. Seconda parte in quanto è divisa in due parti di 30 minuti ciascuna e poi tutto questo è disponibile anche in podcasting. Seconda parte che si è aperta con British Sea Power, un estratto dal loro ultimo Waving Flags, è il titolo della canzone. Poi siamo andati a riprendere dopo veramente tantissimo tempo Cease to Begin, quello che è l'ultimo album dei Band of Horses, Is There a Ghost, il titolo del pezzo che si è appena chiuso. Tutto questo perché il 12 di marzo, quindi per chi sta ascoltando la trasmissione per radio esattamente fra due giorni, mercoledì sera suoneranno in data unica a Milano al Musicdrome. E vi avevo preannunciato a questo proposito una sorpresa per gli ascoltatori di Eclettica, non la possibilità, nel caso qualcuno l'avesse pensato, di andarle a vedere gratuitamente, ma la possibilità di ricevere direttamente a casa proprio una copia di Cease to Begin. E qui non me ne vogliono coloro che si cibano di Eclettica grazie al podcasting, ma a vincere le copie di Cease to Begin dei Band of Horses saranno i primi che scriveranno a Giulio e radiorockfm.com. Ora proseguiamo con una novità, un disco uscito il 7 di marzo per Rough Trade in Europa, invece c'è bisogno ancora di qualche giorno per vederlo pubblicato negli Stati Uniti, che è la sua terra d'origine. È il nuovo di Adam Green, ex Moldy Peaches, nuovo di Adam Green che non è che mi soddisfi proprio completamente, però visto che le sue prove precedenti avevano sempre trovato spazio all'interno delle playlist di Eclettica, mi permetto perlomeno di fare un po' di cronaca. Questa è Morning After Midnight. Hey, things won't be strange any day now. They change every day. Hey, things won't be bad all the time now. Stay bad all the time. But hey now, little lady, this is a tragical sign. It's a sign. Morning after midnight, things don't ever go right. Morning after midnight. just what's going down. Oh, modern lover, what's that noise? Ah, oh, it's just you, Johnny, not one of your boys. We say, hey. Hey, things won't be strange any day now. Hey, things won't be bad all the time now. Stay bad all the time. But hey now, little lady, this is a tragical sign. It's a sign, it's a sign, it's a sign. Morning after midnight, things don't ever go right. Morning after midnight, hey, by and by. Not so sad to wake up. Le donne se ne stavano intorno al braciere, le teste vicine una all'altra e le mani distese verso la brace ardente. Quelle di Amina, scarne e con le vene sporgenti, quelle di Hummanhaft, coriacee, come scudi di tartaruga, e infine quelle di Naima, belle, di un candido bianco. Sembrava che il freddo di quel mese di gennaio dovesse ghiacciare negli angoli del salone, rimasto immutato nel tempo, con le stuoie multicolori e i divani disposti lungo le pareti. La scomparsa del vecchio lume a gas, sostituito da una lampada elettrica che pendeva dal soffitto, aveva però conferito al salone un aspetto diverso. Questo era l'incipit de La via dello zucchero di Najib Mahfouz. But nobody's watching, see, nobody came. So please leave the spotlight, it's none of your place anymore. And all of a sudden it's clear that I'm glad I'm out of that. Cause nights we're in sorrows from days where the logic's prevail. And once again the words that could distract me from where I was directed ever. So all of my certainties fall. now in effect. Any unauthorized personnel will be subject to arrest. This is for your protection. Ho ricevuto un mail a giulio@radiorockfm.com da parte di Baba, mail intitolato Tutto ciò che il cuore desidera. Ciao Giulio. Quando l'altra sera per radio sollecitavi noi ascoltatori a scriverti più assiduamente, mi sono sentita chiamata in causa, perché effettivamente sono un po' latente in questo periodo. È colpa della mia vita che sta cambiando un'altra volta, proprio a me, che sono abitudinaria, che amo le mie consuetudini. Riesco ancora a seguirti a singhiozzo mentre torno da yoga e a casa per lo più in podcasting. Ti accendo quando voglio e mi fai compagnia tra le scartoffie quotidiane. Più che scrivere butto giù appunti e mi preparo per la stagione, vorrei dire calda, ma oggi si sta abbattendo un uragano invernale sulla nostra povera collinetta e vola un po' tutto, anche i pensieri. L'oroscopo dice che questo è il mio anno e che devo pazientare ancora fino a domani e le cose cambieranno. Non riesco a trattenere una risata sonora, ma una parte di me ci crede, come nelle stelle cadenti. Già, sono anch'io tra quelle che esprimono sempre il solito desiderio quando vedono una stella cadente, essere felice. e ho corrotto amici perché mi regalassero la loro stella che io non avevo visto cadere, solo per poter esprimere quello stesso piccolo desiderio. Essere felice, essere felice, essere felice. Perché alla fine un po' ci credo e sorrido. Questa era Baba. E invece per quanto riguarda la musica, quelli che ci siamo ascoltati pochi minuti fa, proprio prima che io iniziassi con le parole di Baba, sono stati i Petrol, con l'ultima notizia è la stessa di sempre. E prima ancora, musica italiana. Ancora musica italiana, Fige con Downing Disaster. Invece ci stiamo per trasferire, per chiudere Eclettica di quest'oggi, a Austin, nel Texas, una formazione che si chiama Sunset. Il nome è particolare, probabilmente è per essere facilmente trovati da un motore di ricerca. Infatti il nome prevede tre parentesi graffe aperte, Sunset, e tre parentesi graffe chiuse. Ruotano attorno alla figura di Bill Bird e escono il 25 di marzo con un album dal titolo Bright Blue Dream, album dal quale vado ad estrarre la canzone Man's Heart Complaint. E con questa canzone, con la psichedelia dei Sunset, si chiude Eclettica di quest'oggi. We'll be right back. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 19, volume numero 1. Indice: Our Brother the Native, Yuppie Flu, Devastations, Il Genio, I Like Trains, British Sea Power, Band of Horses, Adam Green, Fige, Petrol, Sunset. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.